Io ho apprezzato molto il discorso di Bondolfi perché cerca di rendere rigoroso molti aspetti, però a mio giudizio introduce della falsa precisione e dico subito i tre punti su cui mi sembra difettoso. Il primo è tutti vogliono la vita. No, non è vero. C'è una differenza fondamentale tra il volere la vita e il volere la buona vita. La differenza può sembrare un gioco, ma un conto è presupporre che la vita sia sempre buona e che sia sempre meglio essere piuttosto che non essere. Un conto è dire non è vero, noi vogliamo la buona vita e ci può essere la vita grama o cattiva che è meglio non avere. Io credo che questa piccola distinzione cambi molto. Ecco, la seconda falsa precisione riguarda la sterilità è una malattia. Oppure no? Su questo punto è sempre estremamente delicato. La sterilità è senz'altro una malattia. Il fatto che gli interventi di fecondazione artificiale siano una terapia, questo non segue. Voglio dire, qui c'è una distinzione estremamente sottile da tracciare, che è la crux di tutto. La sterilità è una malattia quando comporta un'alterazione. Ad esempio nel caso della donna, di determinate strutture fisiologiche. C'è un diritto alla fertilità, un diritto analogo al diritto alla salute generale, che consiste nella ricomposizione dell'integrità fisiologica. Chiaro? Ma gli interventi di fecondazione artificiale non sono assolutamente un intervento di questo tipo. Guardate che sottoscritto, ho scritto una tesi a favore della fecondazione artificiale, voglio dire, distinguiamo le questioni, sono due cose diverse. Voglio dire, uno, se c'è una donna sterile, interviene e la rende fertile, dopodiché è la natura, è la fertilità del corpo femminile reintegrato che produce il figlio. Ma quando Edwards compie l'intervento di fecondazione artificiale, il corpo rimane ancora sterile. E quindi in questa distinzione, dopodiché c'è un interesse alla procreazione, in questo passaggio, ancora una volta, si cambia l'universo del discorso, perché allora se passiamo a un discorso di interessi, allora si tratterà di discutere di interessi e il ragionamento cambia radicalmente. Terzo punto dove c'è la falsa precisione, è il caso tra eutanasia attiva e passiva. E non è vero, la distinzione è negli atti, non nelle intenzioni. E su questo direi che la differenza tra attivo e passivo è una differenza tra azione e astensione dall'azione. Che le conseguenze siano equivalenti, questo è un altro discorso, ma oggettivamente, io sto dicendo a livello oggettivo, c'è una distinzione. Su questo qui ovviamente si comporta di sapere se ci sono alcuni mezzi che sono sempre ordinari, se vuoi vedere. E secondo me la distinzione di alcuni mezzi che sono sempre ordinari sono l'alimentazione e l'idratazione artificiale, perché questi, ancora una volta, non sono mezzi terapeutici, cioè di reintegrazione del finalismo, ma sono i mezzi di sostentamento vitale, cioè sono la base stessa su cui si muove il finalismo. Per cui, se volete, in teologia c'era il vecchio problema se dar da mangiare, la distribuzione delle ricchezze, il dar da mangiare ai poveri sia dovere di giustizia, esatto, tutto. Io non lo conosco molto bene, ma so che c'è questo problema. Scusa, falsa distinzione, e con questo finisco, sempre a questo livello qui, è che non è vero che il diritto non è capace di cogliere l'invisibilità delle azioni. Questa è una. Voglio dire, chiunque ha studiato, io scusate, su questo, i miei studi originari sono stati in filosofia del diritto, purtroppo su questo non ho conoscenze del diritto italiano perché queste cose le ho studiate nel diritto di common law, ma Hart. Herbert Hart, forse il più grande filosofo del diritto oggi vivente, ha una serie di saggi sul problema della mens rea. Cioè, nel diritto, all'interno del diritto, c'è il discorso dell'intenzionalità e la valutazione dell'intenzionalità. È una delle grandi evoluzioni del diritto moderno, quello di riuscire a valutare l'intenzionalità. Ma c'è una distinzione tra, non sono quindi l'invisibilità delle azioni. La distinzione è, caso Donnelly in America, lui uccide il fratello. Fa un'azione di eutanasia attiva, per cui nel diritto comune è condannabile. Dopodiché, siccome si riconosce la buona intenzione, gli diamo zero pena. Ma questa È una un conto è se l'atto che ha compiuto è un atto illecito, che non merita pena perché l'intenzione era buona. Ma questo è un discorso. Altro è, come tu hai cercato di dire, non c'è distinzione tra i due atti. Perché la differenza è una differenza di intenzioni. E questo, scusami, non è vero. Se il caso di Donnelly è raccontato nel libro di Rushels, La fine della vita, che vi consiglio, edizioni Sonda, molto bello, questo qui aveva un tumore, eccetera, ha chiesto al fratello di sparargli. Il fratello è andato lì, gli ha sparato. E questo qui poi è andato, ha chiesto perdono, ha detto, mio fratello stava così, il giudice l'ha giudicato, gli ha detto, sei colpevole di omicidio di primo grado, meriteresti la pena di morte, però noi riconosciamo la tua buona cosa e ti mandiamo libero. Questo è un tipo di discorso che giuridicamente si fa, ma non veniamo a dire che siccome lui aveva l'intenzione non è possibile distinguere tra le intenzioni e le altre robe. Questo, io scusami, su questo qui sono profondamente contrario. L'ultimissima cosa, ma non voglio rubare oltre, è che quando si parla del diritto ci sono due distinzioni da fare. Un conto è il diritto come ciò che regola, eccetera, ma un conto è la funzione del diritto come elemento costitutivo di un tipo di società. Questo mi pare che sia un elemento che hai accennato ma non hai approfondito, forse per ragioni di tempo. Grazie. Dunque io intervengo anche brevemente sulla questione dell'intenzionalità. Sono Andrea Grillo. Andrea Grillo, sì. Credo che le parole del relatore si riferissero al fatto che l'intenzione rispetto all'atto giuridicamente rileva solo in quanto provata oggettivamente. Questo credo fosse il punto della rilevanza, il che evidentemente pone la distinzione tra piano giuridico e piano morale. Ma proprio riferendomi a questo e non scendendo però in esempi concreti, ma limitandomi al piano generale che per me è stato il più stimolante di queste due giornate, non posso non notare come la complessità del tema si sia riflessa sulla complessità degli approcci. E direi che la relazione dei compagnoni, la relazione di questo pomeriggio, sono un poco i due estremi possibili, ma davvero illuminanti per rigore con cui sono stati condotti. Personalmente io credo che la prospettiva tomista sia, per così dire, meno aperta alla specificità del tema, proprio per il fatto che ha già in fondo una soluzione chiara, evidente, e questo non può, credo, dare soluzioni nuove adeguate a questioni nuove, proprio perché istituzionalmente, almeno per come è stata qui impostata dal professor Compagnoni, con il quale non si può dialogare ed è peccato perché sarebbe stato utile sentire proprio in questo caso il dialogo tra le due prospettive. Ma io vorrei invece venire alle implicanze che proprio nel rapporto tra diritto e morale le due visioni hanno. Perché in quel caso abbiamo sentito il problema di fondo non era tanto a livello morale, perché a livello morale tutto era chiaro. Il problema era che a livello di consenso tutto si traduceva in problemi di consenso politico. Come imporre quello che era chiaro sul piano morale. Qui il presupposto è che dal punto di vista della visibilità nulla è visibile, perché i fatti sono una cosa e le norme sono un'altra. La grande divisione è il grande protagonista di oggi pomeriggio. Ma questa grande divisione, teorizzata molto sul piano della filosofia del diritto, certamente lascia un pochino insoddisfatti. Insoddisfatti sul piano dell'etica, perché abbiamo sentito che i criteri sono criteri negativi. Sul piano dell'etica teologica, perché al meno etico si aggiunge il meno teologico, che in questo caso non dà il più dell'algebra, ma dà un doppio meno. Il che vuol dire che si riduce a tal punto l'incidenza di un parere teologico, che inevitabilmente si finisce per sentire il pericolo della idolatria, il pericolo della giustificazione per mezzo delle opere, e per non cadere su quel piano si restringe a tal punto l'incidenza che di fatto, io credo, ci sia il rischio che è, direi, connesso, essenzialmente contenuto dentro la grande divisione, che è il rischio di una teologia che sul piano dell'etica viva marginalizzata nelle coscienze. Ecco, che questa possibilità, soltanto negativa, sia l'unica possibilità da contrapporre a quel totale ottimismo positivo sul piano morale, che poi diventa impegno totalizzante anche sul piano politico della visione di questa mattina, ecco, credo che forse in mezzo proprio il tema del costume, che è il primo dei due punti negativi che si è visti oggi pomeriggio, il tema del costume potrebbe essere proprio quel punto di mediazione sul quale forse farebbe la pena di insistere con maggiore. Forse rispondo ora perché le domande sono molto dense, quindi se c'è una distanza temporale rischio di dimenticare la loro sostanza. Quest'ultimo accenno appunto ai costumi è sicuramente ben intenzionato, non so se di fatto sia praticabile, io ho cercato di far vedere la difficoltà. Se ci fossero costumi in questo ambito, allora sì, ma non ci sono costumi, è lì il fatto che abbiamo a che fare con delle pratiche di punta che toccano una minoranza infima di persone, che propongono delle pratiche di nuovo per pochissime persone, e la loro diffusione è puramente mediatica, quindi noi conosciamo queste cose attraverso l'influsso dei mass media, ma non nella realtà dei fatti, come grandi masse, quindi è difficile appellarsi in questo caso a dei costumi. Sicuramente, certo, certo. Solo che, visto che la sua diffusione è così fantastica, no, nei mass media, c'è un pericolo, secondo me, in tutte e due le direzioni. O di cantare dei grandi inni ai risultati di queste tecniche perché semplicemente la televisione le loda, o di maledirle in massa perché ci sono delle campagne di maledizione. Io su questo sarei molto attento, cioè questa spada, per così dire, questo coltello dei costumi è estremamente, come dire, a doppia lama, quindi ci starei molto attento perché è facilmente usabile per strategie sia in un punto sia in un altro. Io forse parlo così anche da svizzero, cioè in un contesto sociale come da noi, in cui a partire da questi temi delle biotecnologie si sono viste delle cose veramente molto strane, per esempio delle alleanze politiche assolutamente atipiche, delle alleanze politiche tra estrema destra e estrema sinistra in una linea proibizionista estremamente dura perché ritenuta pagante anche a livello di voti, e a difendere le tecniche procreate che sono rimasti democristiani, insomma, vabbè, si può anche fare, ma la cosa era molto atipica, ecco, molto atipica, e quindi ho delle reticenze anche politico-politiche al riguardo. Ma le altre domande fatte, queste invece sono molto più teoriche, quindi cercherò di entrare maggiormente ora nel tema. Allora, per quanto riguarda la grande divisione, sono d'accordo anch'io che si tratta di un grande problema, di cui io evidentemente non ho una soluzione magica. Forse sono stato capito da lei o sentito da lei un po' come un teologo un po' atipico, no? In questo caso qui, che rifugge in maniera così quasi con riprezzo da qualsiasi forma di naturalismo. Di fatto io mi penso invece, come in questo caso qui, come un uomo di una via media, cioè non sono da una parte né un nominalista radicale, dicendo che in fondo le pratiche sono dei flatus vocis, tutta la decisione etica è puramente mentale, nella realtà non c'è nulla, i fatti sono brutta facta, né sono un iperrealista dall'altra, non posso dire a mia moglie, tu oggi ho visto un'eutanasia attiva, no, non ho visto non la si vede l'eutanasia attiva, cioè né uno né l'altro, cioè né iperrealismo, pensando che le pratiche in se stessi manifestino già il valore o il disvalore, viste nella loro empiricità, né dall'altra però ne manca un nominalismo, ecco, cioè è chiaro, ogni pratica è nel medesimo tempo anche espressione di valori, di attitudini, e quindi di attitudini, però nella misura in cui io ho gli occhiali etici per vederle, perché se non le ho non riesco a vederle, quindi c'è un processo continuo tra la visibilità delle pratiche e le mie attitudini di interpretazione. Se mi vuole collocare diciamo così, tra le varie scuole attorno, mi sentirei piuttosto un interazionista simbolico, ecco, se vuole così, non sono un positivista evidentemente. Che la teologia possa dare a seguito di questa grande spaccatura, della grande divisione, soltanto un contributo in negativo, rammentando ad esempio la giustificazione per sole opere, non è una forma di minimalismo. Io penso per esempio che una comunità cristiana che creda veramente alla imperfezione strutturale della giustizia umana, possa poi in positivo proporre anche qualcosa. Dico semplicemente che forse l'ho fatto anche, sono anche in questo senso un po' atipico, no? Sono un teologo cattolico che lavora a una facoltà protestante, evidentemente la sensibilità protestante mi ha influenzato. Direi che per noi cattolici dovrebbe essere una cura posteriore da fare assolutamente, quella di rendersi conto che con gli strumenti della giustizia di questo mondo è possibile soltanto una giustizia molto, molto limitata, e che quindi investire sogni di perfezione negli strumenti del diritto mi sembra una forma di idolatria teologica. Ecco, questo non significa che io non rispetti il diritto o che lo consideri semplicemente, ecco, non lo ridurrei per esempio a strumento di potere, non lo ridurrei semplicemente alla volontà del principe oppure cosa del genere, no? Direi che attorno al diritto l'uomo può costituire anche una vita buona in società, solo che è uno strumento estremamente limitato e quindi bisogna evitare di proiettare sul diritto dei fantasmi di perfezione etica, ecco. Aspettandosi, il caso dell'aborto è più indicativo, insomma, ecco, le donne continuano ad abortire in barba alle leggi migliori, e quindi c'è una fonte, se vuole, di insoddisfazione fondamentale, che se ne pensi sull'aborto, lo iato tra le intenzioni di una legge e la pratica sociale. Per passare ora invece alle domande di Mori, quello che lui ha detto in parte lo condivido, forse io non ho potuto perché parlavo quindi non mi hai letto, ma mi hai ascoltato, molte volte c'erano le virgolette, quando io dicevo per esempio tutti vogliono la vita, evidentemente cito delle frasi dette, cioè c'è una convinzione comune nella società che tutti siamo per la vita. Tu mi hai precisato, sì, ma non è vero, alcuni sono per la buona vita, eccetera, però fondamentalmente nessuno è disposto, per esempio, a essere presente sulla scena dei mass media come apostolo della morte. Cioè ciascuno di noi tende in tutto quello che fa a dire che lo fa in nome della vita o di una buona vita. Anche coloro che eventualmente sono disposti a limitare alcune forme di vita, sia esso del feto, sia esso del morente, eccetera, eccetera, lo fanno in nome di una buona vita, non lo fanno perché ritengono la morte un valore in sé. Su questo siamo d'accordo. Sulla sterilità malattia, lì forse sono un po' l'attore dei nostri dibattiti che da noi esistono in Svizzera, forse da voi non siete ancora arrivati a questo punto, non lo so, non c'è ancora dibattito, penso, ancora così forte, perché gli attori in gioco non sono soltanto coloro che stanno facendo il diritto da una parte, la classe medica dall'altra, lo Stato, gli ospedali, eccetera, bensì grande attore da noi in Svizzera, siamo un paese di banche e di assicurazioni, sono le assicurazioni. Perché a seconda della definizione che si dà delle tecniche procreatiche ci sono delle conseguenze a livello assicurativo evidenti, cioè se si considerano questi interventi come direttamente terapeutici vengono assunti dalle assicurazioni, se invece non sono direttamente terapeutici non sono assunti dalle assicurazioni. E così come le assicurazioni, ad esempio, non sono disposte a pagare operazioni di chirurgia plastica se non un medico certifichi che la non esecuzione di questa operazione di chirurgia plastica provoca dei danni psichici enormi, no? Allora questa prestazione non viene pagata. E quindi a questo punto, per esempio, la fertilizzazione in vitro in Svizzera attualmente non è pagata dalle assicurazioni perché viene considerata un atto non direttamente terapeutico. Voi vi direte che sono delle forme di sopruso da parte delle assicurazioni. Evidentemente la cosa è abbastanza complessa perché non è dovuta soltanto alla teoria se la sterilità sia o no una malattia e se le tecniche procreatiche siano o no una forma di terapia, ma bensì anche dal grado di successo. Visto che da noi i tassi di successo sono tra i migliori d'Europa, però ci muoviamo sempre ancora tra il 15 e il 20% per la fertilizzazione in vitro, le assicurazioni hanno buon gioco per dire fino a quando rimaniamo a queste percentuali, evidentemente. Poi ci sono degli effetti secondari su cui anche noi eticamente dobbiamo discutere. Io sono a favore, per esempio, dell'assunzione da parte delle assicurazioni, anche se non ci sono tutti gli elementi per legittimarla, perché i soprusi dovuti all'assenza delle assicurazioni sono maggiori di quelli che ci sono se ci fossero le assicurazioni. Di fatto è nato un mercato procreatico che porta a gonfiare i portamoneti di alcuni procreatori in maniera abbastanza pingue, insomma, con degli abusi direi abbastanza forti. Forse per quanto riguarda il cosiddetto diritto alla salute va specificato. Noi tutti ci orientiamo alla definizione della OMS, che secondo me fa un po' come il formaggio svizzero, insomma, come i buchi dell'Emmental. Di fatto abbiamo tutti un diritto alle prestazioni mediche, abbiamo un diritto alle cure, ma non un diritto alla salute. Quindi non c'è un diritto anche in questo senso ad avere dei figli. Abbiamo un diritto ad essere curati affinché la nostra sterilità sia nella misura del possibile sormontata. Ma nessuna donna può andare dal medico e dice: lei il figlio me lo deve fare e se non me lo fa le faccio causa. Non c'è ragione sufficiente. Al massimo può andare a dire: io sono sterile e faccia qualcosa per me, insomma, si metta, lei ha l'obbligo di fare qualcosa per me, ma non più di lì, insomma. Quindi un interesse legittimo, io non ho detto che l'interesse non è legittimo, l'interesse è legittimo, ma non si può parlare di un diritto in senso stretto, e quindi non c'è una, non so come si dice in italiano, la clac barcai, non c'è la possibilità di porre sotto accusa un medico che eventualmente dicesse: no, io queste tecniche non le faccio. Sulla mens rea sono d'accordo con te, certo, il diritto non esamina soltanto i fatti empirici, li esamina in quanto corrispondono a eventualmente intenzioni ree o no. Tant'è vero che in qualsiasi processo penale si dice: lei era al bar alla tal ora, ha fatto le tal cose, ma faceva magari delle cose legittimissime, ma che sono in connessione con una prova di un omicidio. Ecco, mentre io, quando io sostenevo la invisibilità o la impossibilità di distinguere empiricamente, è che siamo arrivati a dei livelli così invisibili nella intenzione, per cui il medesimo gesto può assumere due significati completamente diversi, e l'onere della prova è di colui che accusa, non del medico. Non è il medico che deve dire: io volevo far del bene a questo morente. È il giudice che deve dimostrare che aveva un'intenzione veramente omicida, e questo è di fatto praticamente impossibile. Quindi c'è una impraticabilità pratica, non teoretica, pratica, di dimostrare intenzioni omicide, per esempio nel caso dell'eutanasia, perché i dati puramente empirici, la iniezione di morfina alle 4 del pomeriggio o alle 5, non, di per sé non dice ancora nulla. E quindi sulle intenzioni si possono fare evidentemente molti giudizi, però la cosa diventa molto arbitraria. Penso a possibili processi che non so a cosa devono far capo. Far capo, non so, le testimonianze di infermiere, per esempio, le quali, non so, io voglio fare uno scambetto al primario, dicendo: adesso vado a dire al processo che avevo sentito dire nella corsia che lo voleva far fuori. Cioè, secondo me, non so se ci siamo intesi, ecco, e anche la distinzione tra azione e omissione, ecco, questa tu non la distingui chiaramente, hai perfettamente ragione, però non, c'è una discussione etica attuale che cerca di far capire in cosa consista la distinzione, perché tutti sono convinti che, pur essendoci una distinzione tra azione ed omissione, io ci credo, e c'è anche una qualità etica diversa tra fare una cosa e desistere dal farla, empiricamente però c'è poco da vedere, insomma, la materia circa qua dal punto di vista visibile è estremamente limitata. Io non volevo risolvere problemi, volevo far vedere le difficoltà che ci sono, ecco.